Uno sconto così? Non te l'aspettavi, eh? Dal 21 al 25 febbraio arrivano i Club Days a MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet. Meno 20% extra sui saldi di articoli selezionati. Solo per gli iscritti al MacArthur Glen Club. Registrati ora e risparmia la grande. Ti aspettiamo alla Reggia Designer Outlet. Uno sconto così? Non te l'aspettavi, eh? Dal 21 al 25 febbraio arrivano i Club Days a MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet. Meno 20% extra sui saldi di articoli selezionati. Solo per gli iscritti al MacArthur Glen Club. Registrati ora e risparmia la grande. Ti aspettiamo alla Reggia Designer Outlet. Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questa è Paucracy, animali rivoluzionari. Prima di iniziare con questo episodio, vi ricordo che Paucracy fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/Paucracy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a procrastypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. In questo primo episodio abbiamo voluto affrontare un aspetto molto importante che riguarda la convivenza con i nostri amici cani e gatti, ovvero la scelta di un'alimentazione non convenzionale, la quale però, come ascolterete, rappresenta davvero una valida alternativa. Ci tengo molto a dedicare questo mio primo episodio di un lavoro a lungo meditato e molto voluto al mio amico Ben e alla sua famiglia, perché tutta l'energia e il calore che mi ha trasmesso quando le nostre strade si sono incrociate ora vanno restituite al legittimo proprietario. Per ora è tutto, buon ascolto! Bentornati amici di Paucracy, come vi avevo già anticipato, questa sera parliamo di alimentazione e lo facciamo con degli esperti, con delle persone che ci possono spiegare meglio un certo tipo di alimentazione. Abbiamo con noi Barbara Cambareri, avvocato animalista e vicepresidente dell'associazione I Gatti della Tiburtina e facente parte del direttivo dell'associazione Rifugio Code Felici. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. E poi abbiamo Michele Sacco, proprietario di Baobab Barf e che si occupa di alimentazione a crudo o casalinga per cani e gatti. Benvenuto Michele. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Buonasera a te. Allora ragazzi, voi siete qui perché sostenete uno stile di alimentazione che si distacca totalmente da quello che è la scelta per la maggioranza della popolazione che convive in casa con gatti, in questo caso, perché parliamo soprattutto di gatti ma non solo, anche di cani, ovvero alimentazione con crocchette umido industriale. Perché avete fatto questa scelta di portare avanti questa battaglia? Comincio io che parliamo. Vai Michele, vai. Barbara. Puoi iniziare te Michele. Allora, c'è da considerare diversi aspetti. Innanzitutto partiamo dal punto di vista di un normale papà di cane, insomma, come si può dire? Non si dice papà di gatto o cane, si dice, perché non mi piace la parola proprietario. Sì, proprietario, infatti. Convivente, amico, coabitante, compagno. Ogni compagno che ha, di cane e gatto che sia, è immerso in un mondo che è diciamo, dal punto di vista alimentare per loro, per i carnivori opportunisti e o stretti che siano, che è distopico. È un mondo dove la fa da padrone l'industria. L'industria sono sempre società per azioni, e tutte le società per azioni di questo mondo non pensano ovviamente al benessere delle persone a cui devo vendere il prodotto, ma al bilancio o al fatturato, altrimenti non sarebbero società per azioni. Per quanto vogliano fare un prodotto di qualità o meno, rimane un prodotto surrogato, ovvero un gatto e un cane sono carnivori, sono predatori, e come tutti i predatori mangiano prede. Quindi io mi sono accorto, incontrando il mio cane e i miei gatti, soprattutto Jack, che è il mio cane, mio non mi piace, però è il mio cane, e i miei gatti, anni fa mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava, perché ho incontrato questo cane e ho fatto un percorso. Io personalmente ho fatto un tipo di percorso, però Jack mi ha aiutato a scoprire alcune cose semplicemente osservandolo, e notavo che c'era qualcosa che non inquadrava nella sua salute. Semplicemente avevo capito che era totalmente stupido dare qualcosa che in natura non esiste. Quindi ho avuto la fortuna di incrociare delle persone che facevano delle cose da casa, da sole, e da lì mi sono documentato. Ho scoperto che fondamentalmente per riuscire a dare un valore nutrizionale completo al cane e al gatto non ci vuole molto. Loro mangiano dei parametri che noi distinguiamo in categorie. La storia risale a diversi decenni fa. Alcuni veterinari si sono domandati cosa effettivamente mangiassero, ormai perché si era persa questa abitudine, i carnivori di casa. E quindi hanno cominciato a fare quelle che sono definite osservazioni sul campo, cioè scientifiche, nel cercare di recuperare quelle che era l'alimentazione del loro animale più vicino, gli animali selvatici. Tutti i cani sono discendenti dal lupo grigio per il 99% dei geni, e tutti i gatti sono discendenti, anche se alla lontana, delle linci definite Silversis felix libiche. Quindi semplicemente così, vedendo il patrimonio genetico, ci si accorge che sono strettamente vicini come tipologia di necessità alimentare. Quello che faccio io quindi è a oggi procurare questi parametri. La preda intera per un cane e un gatto sono un valore nutrizionale completo, perché ogni aspetto di questa preda, che noi dividiamo, come ho detto poco fa, in categorie, ha una componente che serve al gatto, al cane, a sopravvivere. Ve la faccio semplice: immaginate una gallina, un coniglio, una capra, un montone o una vacca. Tutte quante sono, allo stesso modo, per il loro predatore naturale, una fonte di alimenti di sopravvivenza. Le categorie con le quali noi le dividiamo sono quattro principalmente: ossa polpose, organi interni e carne senza osso. E poi c'è una parte che definiamo vegetale. Parliamo della necessità del cane. La preda intera è definita, cioè la dividiamo in queste categorie che sono, ricomincio da capo, mi sono incartato perché c'è il gatto che mi sale sulla spalla, però non potete vedere, però mi sta tormentando perché sono arrivato da poco e questa vuole attenzione. Beh, certo. Sì, si chiama Frida ed è una appiccicosa come poche. Dicevo, la parte di ossa polpose che i cani e i gatti devono reperire da loro: calcio, glucosamina, conditina, fosforo. Quindi la parte di ossa polposo dovete immaginare come la zampa di un coniglio, come il coscio di un tacchino, il collo di un tacchino, e quella parte di osso con all'esterno tutta la carne. All'interno ovviamente la parte di osso viene masticata, assorbita e può essere tranquillamente digerita dai nostri animali, perché la capacità gastrica del cane e del gatto è molto più elevata della nostra. Parliamo di una percentuale di pH molto più bassa e una capacità di acido cloridrico circa 10 volte superiore alla nostra. Quindi i loro enzimi sono fatti fondamentalmente per mangiare tranquillamente questo genere di alimenti, se no non avrebbero quel tipo di mandibola. La parte vitaminica del pasto invece sono gli organi interni all'interno della preda, quindi il fegato, il polmone, la milza, i reni, hanno quelle proprietà che soddisfano la parte vitaminica. Tutta la parte invece di carne con grasso intramuscolare, allora la definiamo carne senza osso. La carne senza osso, nel caso degli erbivori, è facente parte anche la parte dello stomaco. Questi componenti qua, la carne senza osso è parte di muscolo, quindi è la parte proteica, il grasso che è la funzione energetica, e nel caso dei cani che mangiano anche la trippa c'è la parte ricca di enzimi digestivi, tutta quella componente che gli erbivori mangiano e predigeriscono per conto del carnivoro opportunista, che è il cane. Loro solitamente in natura, parliamo di lupoidi, insomma dei cani selvatici, quindi del lupo, sono le prime cose che mangiano perché si deteriorano molto più velocemente. Da lì traggono un grande vantaggio del loro microbiota. Tutta la parte più corposa solitamente la nascondono in tana o pensando che poi nei giorni successivi non mangiano, la mettono pure sottoterra. Questi aspetti il cane ce li ha come ricordo ancestrale, per quello fa dei comportamenti, ogni tanto ti nasconde il cibo, fa protezione delle risorse, sono comunque un ricordo alla lontana, ma che è vivo e che ancora esiste. Quindi, quello di cui mi occupo io, al momento, ancora, è di reperire tutto questo genere di alimenti. Poi, come ci sono arrivato, è una lunga storia, se vuoi nel tempo ora riprendiamo, però sì. Va a finire che se non riesco a sistemarli da qualche parte, questa mi uccide, non riesce a farmi parlare, perdonami. Mangiate a crudo. Va bene, nel frattempo che sistemi Frida, sentiamo il punto di vista di Barbara, insomma, perché anche lei ha scelto, poi come vedremo, anche fattivamente e attivamente di sostenere questa scelta alimentare, insomma, soprattutto per quello che riguarda i gatti nello specifico. Quindi Barbara, tu che ci dici in merito a questa scelta alimentare, di alimentazione? Io assolutamente la condivido, anche perché occupandomi di gatti sul campo, perché oltre insomma alla parte burocratica delle associazioni, in particolare io sono nasco gattara, quindi gestisco dal vivo colonie feline, con la mia associazione copriamo gran parte della zona tiburtina di Roma, e abbiamo purtroppo verificato che nel corso degli anni, perché parlo di quasi 12-13 anni di attività, nel corso degli anni abbiamo avuto tantissimi episodi di gatti che comunque si sono ammalati per l'alimentazione. Ovviamente io sto parlando di gatti di strada che mangiano quello che insomma i tutor di colonia sono in grado di poter dare, perché insomma non possiamo neanche immaginare di poter attivare un discorso di alimentazione bar per gli animali di strada. Però ecco, questa è la nostra esperienza, molte situazioni in cui i gatti si ammalavano erano dovute, ecco, all'alimentazione, quindi assolutamente, ma anche proprio stessa per il rispetto della natura, come diceva appunto Michele, degli animali, del loro istinto, credo che sia assolutamente salutare un tipo di scelta di questo genere, considerando che appunto anche le marche industriali più famose si è potuto constatare che hanno degli effetti negativi sulla salute degli animali. Poi ci arrivo un po' più nel dettaglio. Sì, infatti io nella domanda che poi avrei fatto successivamente è: no, perché prima l'ho tralasciata. Qual è il punto di vista dei veterinari? Perché se questa dieta è veramente così essenziale e importante, sì. Devi considerare che l'industria per mangimistica, cioè ovvero la classe veterinaria, ha completamente delegato quella che è la parte dell'alimentazione all'industria mangimistica. Quindi tu ti trovi in grandi multinazionali come Royal, come Nestlé, che hanno marchi come sono la Mars o la Nestlé, che hanno marchi come Purina o Royal, fanno tutti quei prodotti medicati che risolvono il problema al veterinario classico. Devi immaginare che però il veterinario di base non è un nutrizionista, perché nel suo percorso di studi veterinari non sfiora giusto un po' quello che è l'alimentazione del carnivoro. Questo perché? Perché il Ministero della Salute, che forma i veterinari per quelli che sono gli animali da reddito, non gli interessa degli animali di affezione, quindi forma il veterinario per risolvere quelli che possono incorrere essere problemi per gli animali da allevamento, vacche, suini, ovini, cavalli, pollame, eccetera eccetera. Quindi dal macellaio trovi questo genere di alimenti. Chi è che deve controllare la sicurezza di tutto questo genere di alimenti? Il veterinario. Quindi viene formato sotto un altro tipo di necessità dal Ministero della Salute, che poi stabilisce quali esami deve fare per diventare dottore in veterinario. L'alimentazione, cioè, ovviamente i cani e i gatti sono compresi, ma l'alimentazione invece è tutto un altro aspetto, e si fa da un'altra parte, cioè scienza della cura integrata, per esempio si fa a Teramo, so, a diversi anni di master, lì diventi un veterinario, un nutrizionista, se no non lo sei. Se io per esempio mi rompo una gamba, vado dal medico generico, dico mi sono rotto una gamba, quello non ti può curare, vai dall'ortopedico che ha fatto la specializzazione in ortopedia e ti può curare, io ti posso dare un altro genere di aiuto molto importante, ma non sono un ortopedico. Uguale quando andiamo dal veterinario, non è un tuttologo e alcuni aspetti non li può sapere assolutamente, però noi siamo portati a pensare che invece possa aiutarci in tutto e per tutto e che soprattutto il cane sia una sorta di macchina che deve prendere il bollino una volta all'anno per il vaccino o per altre cose. Il veterinario porello deve arrivare a fine mese, a fine anno, deve comunque sia tirare anche su lui la sua carretta, e questi sono altri aspetti che spesso e volentieri, purtroppo io constato, che vanno contro la deontologia veterinaria, e spesso i veterinari per arrivare a fine mese fanno una serie di azioni che non sempre vanno nella tutela dell'animale. Questo purtroppo è triste, ma è la mala realtà. Capito? Okay. Se io ho un cane e magari ha fatto tutto il ciclo vaccinale e invece di fargli il bollino tutti i mesi o comunque una volta all'anno, per parlare di un altro aspetto che è un problema, gli faccio una titolazione anticorpale e quel vaccino già c'è, ma perché lo devo fare un'altra volta? Quindi poi questo è uno degli aspetti magari che ti trovi a constatare, che ti può accendere la campanella di allarme e dire forse non sto andando dal veterinario giusto, perché ci sono i veterinari che ti danno ovviamente quei consigli e ti dicono anche guarda, io di alimentazione non so una beata ceppa, ti do il numero o il contatto di un bravo nutrizionista e ci penserà lui a risolvere il tuo problema, non ci penserà la Mars con il prodotto gastrointestinal, con il prodotto renal, con il prodotto obesity o che dir si voglia. Uh-huh. Capito? Perché sono delle follie da certi punti di vista. Alcuni prodotti possono aver dato aiuto, ma non vanno mai a risolvere la radice del problema, possono andare a coprire un sintomo. E questo per quanto riguarda questo aspetto, che è più che altro cominciale. Per quanto riguarda invece un altro tipologia di aspetto, devi considerare la composizione delle bronchette commerciali. Il cane è un carnivoro opportunista, il gatto è un carnivoro stretto. Hanno quindi un'esigenza nel corpo con un indice glicemico pari a zero in confronto a quello dell'uomo, ovvero non mangiano carboidrati. Nelle croccantini commerciali è pieno di alto indice glicemico, spesso trovi appunto nei croccantini come l'azienda di cui ho parlato prima una quantità di carboidrati immane, da mais. Io non ho mai visto un cane o un gatto a pannocchie, a risaie o a patate, però trovi quella come componente principale perché non gli costa niente. Quindi tu hai una palletta con magari proteina di pollame disidratata e una svariata serie di integratori che servono a far sopravvivere il tuo gatto o il tuo cane. Non è che lo fanno vivere a pagato. Poi magari grazie a questi splendidi alimenti la bocca diventa una ciofeca piena di tartaro perché non c'è una masticazione adeguata sopra un osso polposo che lo rasci sempre pulito, e devi pure chiedere al veterinario se te lo addormenta per fargli l'ablazione. Follie. Quindi ci sono una serie di cose che portano il tuo gatto a stare male durante la sua vita a causa di cose che non sono un perpetrare una linea che deve essere sempre dettata dall'industria. Questo è malessere totale. Certo. Quindi questo era l'aspetto, diciamo, delle crocchette. È sono chiaro. Tutte così. La crocchetta, diciamo così, alta fascia, che è una follia per certi versi, spesso viene dall'estero, costa magari 80-100 euro al pacco e dentro tu hai 12 kg di aria, dove hai un'alta percentuale di proteina che collega la percezione della persona che lo compra a una più alta qualità, perché magari è una crocchetta senza carboidrati, allora è più vicina alla natura del carnivoro opportunista o stretto che sia. Poi vai a vedere dentro magari il piano dei legumi, non c'è scritto su carboidrati, ci stanno i legumi, ma tu non te ne sei accorto. Io alzo il livello di scritta proteina perché ho fatto la somma della proteina della carne, poi la somma della proteina dei fagioli o dei miselli, e tu leggi 80%, 90%. Premesso che il cane, anche se è un predatore, non lo devo imbottire di proteine, sono gli spacco i reni. Ci sono ovviamente dei parametri generali nei quali bisogna rientrare, fuori dai quali il cane e il gatto possono star male. Quindi tu da una parte magari vai lì, sbatti all'interno di un negozio di una multinazionale francese, fa un nome a caso, Alta Planet, io ho detto ma... Vai, puoi fare tutti i nomi che vuoi. Una cazzata di prodotti, dal da quello meno costoso al più costoso, dove ovviamente chi ti guida deve darti qualcosa, e quello che è più costoso è quello senza i carboidrati, di un'azienda che fa pochi prodotti però stanno tutte taglie. Guarda caso, alla fine ti trovi a spendere una certa cifra per 12 kg di aria, ma se compro 12 kg di carne quanto avevo comprato? È chiaro. Quindi, alla fine, anche sull'aspetto economico c'è da dire tanto. Sì, magari ci arriviamo un attimo soltanto. Io volevo capire perché l'hai accennato, quindi credo di averlo capito, però anche per gli ascoltatori, così, questa problematica, diciamo così, di incentivazione all'alimentazione chimica, diciamo così, no? La possiamo chiamare in questo modo. Non ho capito, scusa. Artificioso uguale per tutti. Immagina se io ci avessi una sorta di biscotto, non lo so, facciamo un esempio pratico. C'ho un mio bambino, nasce, sì. Vado dal pediatra e mi dice: guarda, questa busta fatta di crocchette va bene per il tuo bimbo da 0 a 6 mesi. Dentro ci sono tutta una serie di integratori. Va bene così, sì, ma il mio bimbo è biondo, pesa 5 kg, l'altro che mi è nato, sono due gemelli, ne pesa 2. È femmina, va bene per tutte e due, certo, capito? Non ci siamo, esempio, non ci siamo. Però a me non mi suona. Ogni cane ha una sua specificità, sì. Ovviamente, e possiamo accorgercene semplicemente mentre gli diamo da mangiare, dal suo stile di vita, da come reagisce, dalle feci, ci parla in qualche maniera. Dopo un po' entriamo in interazione con lui, abbiamo una sorta di empatia con il cane e con il gatto, che qualsiasi mossa faccia è come se la avverta. Quindi qualsiasi cosa io do al cane riesco sempre, o al gatto, riesco sempre a capire se è una cosa che va bene o meno, me ne accorgo, insomma. Però sicuramente questo, quando diciamo a far star male il tuo cane o il tuo gatto è un alimento, vieni rimbalzato da una serie di alimenti sempre diversi, sempre crocche, e non trovi mai una quadra, un campanello allarme ci può venire in mente. Potrebbe essere una serie di integratori, potrebbe essere un conservante, potrebbe semplicemente essere che, siccome la natura del cane è mangiare una preda viva, o comunque sia che la uccide e la mangia, e il gatto uguale, basta considerare un aspetto, ovvero la preda è fatta anche di acqua metabolica, quasi il 70%. La crocchetta è una cosa secca. Quando entra nell'intestino assorbe tutta l'acqua all'intestino e lo rende piuttosto irritabile. Quindi sono diversi gli aspetti negativi che posso incontrare in una crocchetta semplicemente perché è una crocca, magari non perché la fonte proteica è il problema. Molto chiaro, molto chiaro. Allora, a questo punto addentriamoci un po' meglio nella dieta BARF, quindi cerchiamo di capire in che cosa consiste, e poi cerchiamo anche di affrontare quello che è l'aspetto economico di questa scelta, e se c'è comunque la possibilità di farlo, insomma. Michele. La possibilità per tutti, perché se io mi faccio una lana so che dovrò dargli una carrellata di croccantini al giorno. Certo. Se voglio dei croccantini migliori e mi sono comprato un cane, già che me lo sono comprato, avrò comunque sia messo in conto il fatto che ho preso un animale più delicato rispetto alla norma. I cani meticci che posso prendere in adozione, o i gatti meticci che posso prendere in adozione, sono ovviamente più delicati, più forti. Quando, a meno che non siano i gatti che Barbara giustamente salva da tutte le parti, che invece sono a casa. Le mie due gatte qui, a cui c'è una pallina per distrarla, vengono da Lovano Romano, in mezzo alla strada, sono due bestie, sono due gremlins, fanno veramente schifo, mangiano tre pezzi di preda intera tutti i giorni. Però sono fortunate perché non hanno nessuna tipologia di problema. Ma la mamma le ha tirate via proprio dalla campagna, e quindi io sono stato fortunato, ho incontrato due gatte meticce assolutamente forti, quindi i loro geni sono stati selezionati da mamma natura per essere più resistenti. Se invece io vado a selezionare sempre lo stesso tipologia di linea sanguigna, ovviamente c'è un impoverimento genetico. Mm-hmm. Questo si scontra. Diciamo che quindi quando prendo un cane devo anche valutare se sto prendendo un cane di razza o meno. Se prendo, io spero sempre che la gente svuoti i canili e i gattili del mondo, una persona che va a prendere un animale farà i conti con l'alimentazione anche in base a questo. Non tutti i medici sono sicuramente sani, ma la percentuale di cani che hanno più problematiche sono sicuramente quelli di razza. Uguale per i cani. Capito? Sì, è abbastanza noto. Cioè, ci sono cani e gatti che hanno diverse tipologie di possibili problematiche ricorrenti. Mm-hmm. Passato questa premessa un po' lunga, perdonami se mi sono dilungato. No, va benissimo, non ti preoccupare. Tanto su come è strutturata la dieta BARF. Sì, in che cosa consiste? Come è strutturata? Come si... No, la dieta BARF, insomma, come dicevo prima velocemente, si tratta di... A parte l'acronimo significa asso polpose e cibo crudo o cibo crudo o cibo biologicamente appropriato. Il veterinario che l'ha inventato come termine BARF si chiamava, oddio, non mi ricordo più, era australiano, facciamo questo, era australiano. Poi c'è un nome che non mi ricordo mai, perché somigliava per qualche motivo... Mr. Livingstone, I suppose, quello che trovò in mezzo all'Africa, però non c'entra niente. E io ogni volta che penso a lui, invece di venirmi il nome suo, mi viene il nome di questo. Non lo so. Va bene. Poi un'altra veterinaria, che è Swan Simon, che ha scritto un libro molto popolare che è La dieta BARF del cane, invece ha cambiato un po' la terminologia. Invece di bones e raw food, che significa ossa polpose e cibo crudo, l'ha cambiato in biologiche le proprie di raw food, e quindi non è una marca assolutamente, è un metodo. È come dire, non so, compro un pacchetto di macrobiotica, no. faccio metodo BARF. Nella parola già capisci che si rifà a qualcosa di assolutamente naturale. Quindi biologiche le proprie di raw food è quello che tendenzialmente si usa, e all'interno quello che serve al cane e gatto sono queste componenti di cui ho accennato prima. Io posso disporle però in questa maniera, cioè nel mio lavoro procuro prede, quindi procuro le fonti proteiche, procuro le carni, le ossa polpose, gli organi separati o macinati in diverse grammature, a seconda delle esigenze del cane. Se il cane è un cane molto delicato, che a cui sarà disposta una dieta casalinga, avrò una tipologia di quantità di carni, piuttosto magari difficile di reperire, come può essere maiale, cavallo o faraona o addirittura fagiano, coniglio, magro, cioè non è semplice trovarli a un buon prezzo di qualità, bovino ovviamente, pollame. E se invece è una dieta crudo è molto più semplice, perché sono due diverse metodologie. La metodologia crudo è per un cane sano, qualsiasi cane sano può mangiare, quindi in maniera così. È uguale il gatto, qualsiasi gatto che sia forte, come le mie due bestie, può mangiare a crudo. Qualora invece non ho un cane sano, ho bisogno di un gatto sano, ho bisogno di un nutrizionista che mi indichi una via per poter riprendere la salute del mio animale. La dieta casalinga è una dieta che è manovrata, di conseguenza ho un'indicazione molto precisa in base all'analisi e alla visita del nutrizionista, che mi impone alcune grammature e alcune specificità per lui. Quindi magari mi dà, non lo so, 100 grammi di proteina solo bovino, 40 grammi di fegato, nessun osso polposo perché non lo riesce a digerire. Cioè, a quel cane Maria Natura ha detto di morire, ma non lo portiamo avanti. A quel gatto Maria Natura ha detto che è allergico tremendamente a questa fonte proteica, la devi evitare e per il resto va bene. Capito? In questo caso parliamo di dieta casalinga, spesso quando viene cucinata. Cioè, l'animale non riesce a tollerare il crudo, ha bisogno di una cottura per una maggiore digeribilità o altri fattori, e così facendo riesce a andare avanti e a guarire o a trovare il bandolo della matassa del suo problema. O magari si fa una dieta a esclusione, quindi si cerca di resettare il cane e serve del pesce bianco, quindi per un periodo di tempo farà una dieta esclusiva con una proteina sconosciuta che non gli ha mai dato noia, e poi si introdurrà la proteina scatenante alla ricerca, se è quello il problema. Quindi, però così tu trovi la causa, e questa è la grande bravura del veterinario nutrizionista. che va lì a cercare la causa, una volta trovata tu l'hai guarito. Capito? Perfetto. Adesso per quanto riguarda invece, mi sono dilungato come al solito, per quanto riguarda quello che bene o male si procura, sono quello che avevo detto prima, le ossa polpose. Devi immaginare come io vendo per quello che riguarda il bisogno del mantenimento dello stato scheletrico o delle altre funzioni, le ossa polpose nei tagli di, che so, collo di tacchino, può essere dato un cane sui dai 25 ai 100 kg, colli di pollo che si danno a cani e gatti di qualsiasi dimensione, ali di faraona che piacciono più ai cani di piccola stazza e ai gatti, teste di coniglio, le mie gatte ce vanno matte per esempio, altri invece le disdegnano. Sono comunque sia tutte queste cose che ho detto, le chiamiamo OP. La parte di OP da calcio, glutamina, conditrina, fosforo. Il calcio serve, come ho detto prima, al mantenimento del tessuto osseo. La glutamina, la conditrina sono per il liquido sinoviale, per la cartilagine, questo mantenimento qua. Poi c'è la parte del fosforo, il midollo, c'è tutto un rapporto che solitamente, se dato in dieta casalinga, ci pensa a vedere un nutrizionista, ma comunque sia, se invece uno fa ruotare le ossa polpose, arriva sempre, ci pensa l'organismo del nostro animale a assorbire quello che gli serve. Il calcio ha anche una funzione di calcio ematico che trova nelle ossa polpose, ovvero il calcio ematico serve per far parlare i nervi, se no il cuore non batterebbe, capito? Quindi è importantissimo che il mio cane, il mio gatto possa mangiare questo genere di cose. Se non lo riesce a mangiare, lo devo integrare. Una dieta casalinga che non prevede ossa polpose, perché magari il mio cane o il mio gatto a 15 anni non può più masticare, devo integrare il calcio. Quindi dovrò ricorrere a un integratore o a del guscio d'uovo, che è ricchissimo di calcio, c'ha quasi il 38% di calcio puro. Ma passando invece alla componente che ho detto prima, il cuore, il polmone, la milza, il rene, il fegato, si distribuiscono per una percentuale minore. Comunque le percentuali di queste cose non amo dirle spesso, perché poi la gente reagisce male. Se io quindi, quando magari mi trovo a suggerire un parametro generico che puoi trovare da solo su qualche libro, bene o male la persona ti ascolta, ma poi possono esserci cani o gatti che ne mangiano più o di meno a seconda del come li assorbono, capito? Quindi solitamente, però, diciamo in termini generici, la parte di ossa polpose si dà per un quarto del pasto, la parte degli organi per circa il 15%. Negli organi interni la parte in cui solitamente si dà molto importanza è la parte del fegato, perché non si può dare oltre una certa percentuale, altrimenti rischi di far andare in affaticamento, cioè non è molto facile, è faticoso da digerire. Quindi gli organi, che sono la parte vitaminica del pasto, sono anche una componente un po' più faticosa da digerire e mi fanno fare la cacca lenta. Quindi se io ti do una percentuale di organi settimanale, diciamo il 15%, e la persona se la spara tutta in un giorno, minimo il giorno dopo il cane mi fa la cacca liquida. Queste sono tra quelle cose che uno impara andando facendo. Se invece ho tutte ossa polpose per due giorni di seguito, il cane mi fa la cacca durissima, perché il calcio, che in eccesso che il cane espelle, mi solidifica di più le feci. Se mangia un capretto intero, ha fatto una preda intera, vabbè, tutto a posto. Ci sono consoli. La parte di carne senza osso invece è facente parte, parlando del gatto, solo di carne e grasso intramuscolare, non in conto la trippa, perché non è che uccide agnelli. Per quanto riguarda il cane invece è proteina, che è la parte muscolare, grasso, che è funzione energetica, e trippa verde, che è lo stomaco dei ruminanti, che puzza di merda, che è la parte, scusami, è stato franco, è la parte, diciamo, che dà tutta quella componente probiotica, ricca di enzimi digestivi. Adesso, la parte proteica è proprio il muscolo. Quindi io magari vendo bovino, vendo cavallo magro, vengo tacchino magro, parlo di muscolo. Durelli sono una parte povera dei piatti di una volta, molto consistente, a cui i cani e i gatti piace masticare, perché è consistente, però è muscolo. Questa componente qui è la parte proteica. L'errore grandissimo che spesso fanno alcune persone che approcciano, prendo, gli do da mangiare io al cane, senza però informarsi bene, è dare solo carne. Quindi dando solo proteina, l'energia che il cane e il gatto deve usare per digerire la proteina è maggiore di quella che assume, e comunque sul lungo andare gli sfondi i reni. Ma la parte proteica in questa carne senza osso per un gatto può essere la parte, è minima. Quindi la CSO la chiamiamo, questa categoria, carne senza osso, in un cane può essere un 40%, in un gatto un 50%, bene o male, o poco più. Però in questa parte qui, diciamo, di questo 40 c'è una componente, se divido in tre già è minima, meno del 15, di proteina, poi il grasso e poi la trippa. La parte ovviamente invece di grasso, ci sono alcuni cani che ne hanno più necessità. Faccio un esempio. C'ho un husky e abito in Siberia. La parte che conserve di grasso è estremamente ampia, capito? Perché deve assorbire molte energie sul lungo tragitto. Se c'ho un cane da slitta e faccio quel tipo di lavoro, ovviamente sto parlando così per farmi capire a cosa serve il grasso, l'energia che poi il cane viene a richiamare è quella del grasso. Quando arrivato al 20° chilometro comincia a assorbire energia da lì. Non so se è proprio come i nostri carboidrati, però insomma, fatto un esempio sulla lunga fatica. Per quanto riguarda invece la parte probiotica, o comunque sia quella della trippa, nei cani è una cosa importantissima. La trippa è una cosa favolosa, noi la lavoriamo di bovino e di agnello. Di agnello solitamente è meno trattata. Quella di bovino, essendo la vacca da allevamento, sta molto più tempo all'interno degli allevamenti e di conseguenza subisce un trattamento sanitario più ingente, e questo porta ovviamente ad avere una trippa meno brillante. Parliamo sempre di trippa, stomaci, figuriamoci. Poi so vegano. Quindi la parte, queste tre componenti sono della carne senza osso, le dividiamo così. Però quando noi parliamo in categoria, diciamo tra persone che masticano BARF, dopo neanche una settimana ti fa orecchio, hai dato P, hai dato organi, hai dato CSO, e la persona rientra nella logica, sono quattro cose. C'è la parte vegetale che ancora non abbiamo nominato. All'interno dello stomaco delle prede, il cane, essendo lui un carnivoro, e siccome i carnivori scindono il glucosio da proteina da carne e non dagli amidi, motivo per cui i carboidrati dentro i croccantini non hanno motivo di esistere per molti versi, alla fine sfrutto quello che trovo nello stomaco delle prede per me stesso, perché non ho la capacità, io carnivoro opportunista o carnivoro stretto che sia, ripeto, di poterla digerire da solo. Se io do una carota a un cane, lui la mangia, è buona, gli piace, ma la metà la ritrovo interna nella cacca. Così ho capito meglio? Sì. Sì. Quindi, se invece la frullo finemente, o frullo comunque sia finemente quelle verdure che può mangiare, cerco di fare quello che è più vicino possibile a un predigerito che troverebbe nello stomaco delle prede. Quindi, e loro mangiano alcune erbe officinali che riconoscono al parco, magari il tarassaco, tarassaco, pisciacane, dentrione, che dir si voglia, perché è ricco di vitamina K, per esempio. L'erba amica io la vendo, ha la stessa funzione. E quindi riconoscono, magari hanno piacere a masticare alcune erbe con cui si aggiustano lo stomaco, magari hanno bisogno di vomitare, quindi prendono alcune erbe che li possano far vomitare, o magari masticano, spesso accade, la malva, è buona per loro. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti vegetali che comunque anche i carnivori opportunisti sfruttano. Mentre il gatto, che è un carnivoro stretto, ha un'altra storia in questo. La sua parte vegetale è veramente minima, forse qualche erba officinale, perché ha un altro tipo di struttura anatomica e di esigenze. Si sono evoluti in due modi differenti, nel senso non è che sono uno è un cane, è un canide, l'altro è un felino. Quindi sono sì, in comune hanno questo, predatori. Hanno un'alimentazione sicuramente da predatori, ma ragionano in maniera totalmente diversa. Qui entra in gioco un aspetto fondamentale nel gatto. Quindi quando devo dare da mangiare a un cane o un gatto, io ho delle differenze da dover affrontare. E prepariamo abbiamo dei preparati differenti. Entra in gioco il foraggio. Prima forse qualcuno ci ha pensato quando ho parlato della vacca che sta all'interno degli allevamenti. Sì. Mangiano sempre allo stesso modo. non è che stanno in giro a pascolare per i prati sompettando felici. Magari l'agnello può capitare che sta nello stesso prato, ma troverà sempre la stessa disponibilità vegetale. Mentre non se sta libera nel bosco trova erbe officinali, radici, bacche, cortecce o tuberi. No, capito? Quindi il suo tenore analitico di ciccia non è uguale a quello di un allevamento. Se io prendo un cinghiale, ha un tipo di nutrimento che è diverso dal maiale d'allevamento. Premesso che i cacciatori danno il foraggio in mezzo ai boschi e ai cinghiali perché ci fanno quello che ci fanno. Questo è un altro discorso che purtroppo è meglio che non affronti. Ci abbiamo tutto sto tempo. Magari lo possiamo affrontare un'altra volta, insomma. No, no, tanto pratico, comincio a tirar fuori anche il peggio di me. Io sono vegano, antispecista e so così, capisci? Quindi quando comincio a parlare di caccia ne parte l'embolo. E che la gente chiude la trasmissione. Ti stavo spiegando perché il gatto è differente dal cane come esigenza nutrizionale. Il gatto ha un fabbisogno, per esempio, non fa scorta di amminoacidi essenziali. Ecco, la cosa importante da capire è questa: non fa scorta di amminoacidi essenziali perché si è evoluto in un'altra maniera. E questo è una questione, però prima ero rimasto sul tenore analitico. Quindi le carni che prendo dagli allevamenti, comunque sia, che sono sempre da consumo umano, hanno quindi un tenore analitico povero. Io posso, per il cane, nella parte vegetale, sopperire a quella mancanza aggiustando alcune componenti. Posso introdurre dell'erba medica, posso introdurre della cicoria disidratata che aiuta la cistifella ad attivarsi, posso mettere alcuni supplementi come omega 3 o cose del genere, perché il tenore analitico della carne che ho posso rimediare solo da allevamento non è magari il massimo o non è sufficiente, non è come Mare Natura li farebbe trovare nel bosco, capito? Uh-huh. Per quanto riguarda invece il gatto, ha un'esigenza di taurina differente, ovvero la taurina è importantissima soprattutto per alcune questioni neurologiche, ma il gatto, a differenza del cane, non fa scorta nel proprio organismo di quello che trova, espelle quello che è in eccesso, c'ha una quota, arrivata a quella quota che prende nel cibo del giorno espelle il resto. Il cane non riesce a fare scorta nelle gappe, capito? Questo perché hanno avuto due modi di evolversi differenti. Il gatto viene dal deserto, la Silversis felix libica per esempio, noi abbiamo invece il cactus, ma il capostipite è quello. Comunque sia, si sono avuti in ambienti molto ostili dove non c'era acqua, quindi hanno un metodo di caccia da guado che è differente, che li ha portati a riuscire a avere quasi cibo abbastanza quasi sempre. Il gatto difficilmente non va a segno, quindi la scorta di cibo ce l'ha. Questo comporta non pensare al digiuno, quindi una scorta di amminoacidi essenziali non me la devo preoccupare, quella che ne c'è va via. Mo ho fatto un esempio proprio base, io non è che faccio il veterinario, ripeto, però ti no posso no raccogliere. Anzi, ci serve anche per capire, insomma, no? Sì. Quindi vado per esempi storici. Per quanto riguarda il cane invece, si è evoluto in un sistema differente. Il cane, il lupo, quindi il Canis lupus, da noi c'è il Canis lupus italicus, ovviamente ha un altro tipo di metodo di alimentazione. Non sa se oggi mangia, l'età romana. Se, quando va a caccia, quindi, lo fa in metodo da braccata. È un branco, c'è una struttura gerarchica molto importante, fondamentale. Il nostro cane ha un vago ricordo, ormai va sull'individualismo, cioè sul dualismo, io e papà, mamma. E quindi tutta una serie di aspetti ci sono, però non hanno quella forza che c'è in un branco, dove ogni individuo è importante. Se portano quindi a compimento un attacco, lo fanno grazie a una grande collaborazione, ma spesso vanno a vuoto, e soprattutto i lupi solitari che sono disgregati magari dal branco hanno questa difficoltà. Quindi se oggi non mangio, c'ho un comunque un fisico che mi ha dato quella capacità di aver travarmi dell'evoluzione di resistere al digiuno. Che succede quando trovo una preda? La mangio tutta, lascio niente, quasi. Quello che mi avanza, che magari è un pezzo d'osso polposo, lo metto sotto terra perché non so se domani Mare Natura mi permette di mangiare. Quindi ha portato l'organismo a avere questa capacità di riserva. Capito? Questo per farvi capire che il gatto e il cane sono due esseri distinti e separati, ma bene o male 80% l'80% dell'alimentazione è simile. Noi, per sopperire al problema della mancanza di taurina come quota, facciamo delle pappe che sono integrali a 2500 mg per chilo medio di taurina, e le chiamiamo pappe. Io faccio dei preparati, dei macinati e dei pezzi interi. Quindi la gatta mia magari oggi mangia una pernice intera, domani c'ho fretta e ho una pappa di manzo integrata con taurina. La pappa indica che è integrata, mentre il macinato del cane, che è un po' più grosso, una macina grossa, invece non è integrata, non ce n'ha bisogno. Ma non vuol dire che il macinato del cane non posso dare al gatto, e viceversa. Capito? Capito. È chiaro. No, è molto chiaro e anche molto interessante, nel molto senso interessante, ci fa porre un sacco di domande a noi diciamo così, abitanti e conviventi e amici di cani e gatti, insomma. Però, e speriamo che mi sono dimenticato prima di fare un'analisi, diciamo, anatomica, diciamo così. Tu devi immaginare che, non lo so se prima ho detto, ma il cane e il gatto hanno una masticazione a strappo verticali, quindi hanno fendenti, hanno una pressione per centimetro quadro mostruosa, tipo il cane può arrivare a 160 kg per centimetro quadro. La sua bocca non fa movimenti laterali e non ha molari piatti, ergo non rompe fibre, non ha amilasi, quindi ok, la sua carotide è enorme per deglutire facilmente cibo fatto a pezzi, quindi mastica e trancia verticalmente, si mette sdraiato in maniera che l'asse del collo e quello del stomaco sia un asse orizzontale e non piegato su una ciotola a 90 gradi, che non è proprio il massimo per mangiare per loro. Questo quindi mi fa capire tante cose. C'è chi alza la ciotola, cioè faccio il danno e poi cerco di rimediarlo, ma sempre con qualcosa che non fa parte della sua natura, cioè la crocca. Invece quando un cane mangia un collo di tacchino, può mangiare anche un pezzo di trippa, lo fa sdraiato a terra, e la natura della sua dell'esofago e dello stomaco sono messe nel corretto sistema, in orizzontale. La deglutizione così è favorevole. La bava è viscosa per favorire la deglutizione di grossi pezzi di cibo. Okay. Poi entra nello stomaco, che ha una capacità, come abbiamo detto di prima, gastrica molto differente, ed è molto elastico quello del cane, perché deve fare scorta. Quindi immagina che un lupo può tranquillamente mangiare quasi fino al, diciamo, più o meno mi pare 40% del proprio peso corporeo. Cioè un cane di 40 kg può mangiare tipo 10 kg di carne. Questo significa che il suo stomaco è elastico per poter poi fare scorta di tutto quello che riesce a trovare. Opportunismo. Ok, quello che avanza lo sotterro. Poi l'intestino del cane e del gatto è molto corto, quello del gatto cortissimo, quello del cane dai 3-6 volte circa la lunghezza del proprio corpo. Noi che siamo onnivori, una dozzina di volte. La vacca 24. Quindi l'intestino ha una rapida espulsione delle feci di quello che mangia. 24-36 ore, non c'è modo di cancro, perché primo posso mangiare carne perché so questo tipo. Secondo, è in rapida espulsione. Invece un essere umano che mangia tutti i giorni la carne con un intestino così lungo e ovviamente un'anatomia diversa, poi prima o poi ci muore, perché la carne diventa cancerogena per tutto il tempo che ci mette fuori, però si ostenta la carne tutti i giorni. Ma questo è un altro capitolo. Andiamo su altri orizzonti, insomma, che ovviamente possiamo toccare, ma magari nel programma giusto, insomma. di umani ancora non ci occupiamo, insomma. Allora, grazie Michele, perché veramente è stato molto importante quello che ci hai spiegato, raccontato fino adesso. È stato carino con la videoripresa, però in radio non si vede, perché cioè, quando io sto fermo, sì, manco tutto il giorno, queste due si mettono vicino e cominciano a ronzarmi intorno come gli squali, quindi mi dispiace se io sono intanto mi sono distratto, mi sono ripetuto. E per adesso siamo soltanto podcast, diciamo così, radio, però diciamo che non si sa mai, magari le cose vanno bene e ci evolviamo in una trasmissione live, magari più avanti, chi lo sa, insomma, e poi magari ti facciamo ritornare e possiamo vedere le ragazze che ci girano intorno. Le gatte che ti girano intorno. Allora, una cosa importante proprio in merito a quanto abbiamo detto fino adesso, tutto quello che abbiamo raccontato, Michele e Barbara sono qua per sicuramente sostenere la dieta BARF, come abbiamo sentito, da più punti di vista, ma soprattutto sono qui per invitarci, tutti quelli che possono, ad un evento che si terrà il 19 maggio a Roma. Barbara, ce ne vuoi parlare te? Sì, allora abbiamo già fatto un evento del genere con Michele Bau Barf nel 2017 ed è un evento, insomma, che ha riscosso piuttosto successo, anche perché se non si definisce esperto, però insomma noi l'abbiamo ascoltato con una competenza non indifferente. Beh, quindi, diciamo che se non è esperto lui, non lo so. Esatto, vabbè. Appunto, è piacevole. Comunque ci fa addentrare in aspetti che a noi sono del tutto sconosciuti, perché di queste cose sostanzialmente non se ne parla, anche per una questione di interesse eccetera. Quindi noi abbiamo organizzato questo evento il 19 maggio, inizierà alle 17:30, che si chiama Miti e leggende sulla nutrizione del carnivoro stretto. Scusa Barbara, ti abbiamo perso per un attimo, quindi se sì, ci vuoi l'orario. Sì. Sì, ho detto 19 maggio e ci sarà la registrazione, insomma, dei partecipanti ad iniziare dalle 17:30. Quindi a questo evento parteciperanno dei medici veterinari qualificati, quale per esempio Maria Maier, che è un medico veterinario, omeopata, master PNEI, master in nutrizione e dietetica clinica del cane e del gatto. Poi ci sarà Marta Batti, che è un medico veterinario, DVM omeopata, master PNEI, scienza della cura integrata, master di primo livello in nutrizione e alimentazione del cane e del gatto. Quindi insomma abbiamo dei personaggi importanti. Avremo Carmine Selese, che è un medico veterinario, e poi avremo anche ospite Enrico Di Giuseppe Toccafondi, è autore di un libro che si chiama Gatti nel mondo, e quindi ci presenterà l'opera, e, molto interessante, insomma, perché è un lavoro abbastanza originale. Enorme quel lavoro, immenso. Esatto, perché ha raccolto tutta la insomma, tutte le razze del mondo dei gatti, quindi è un lavoro abbastanza importante. Poi abbiamo Silvia Bernabucci, DVM Master primo livello nutrizione e alimentazione del cane e del gatto. Anche Carmen è nutrizionista. Sì, infatti, e ci sarà ovviamente Michele che ci presenterà, insomma, le sue competenze, come ha fatto adesso, e i gatti della Tiburtina partecipano, appunto, organizzando anche una riffa di beneficenza. Offriremo un buffet antispecista e insomma, ecco, questo è l'evento che si terrà in Roma, ripeto, il 19 maggio alle 17:30, zona Talenti. Come? Ho organizzato anche i premi? C'erano anche i premi? Sì, i premi, vuoi che li dica? Senz'altro. Cioè, no, guardi. Ovviamente il costo del biglietto di partecipazione è di 12 euro e tutto il ricavato sarà insomma impiegato per la cura dei gatti e accudimento dei gatti che abbiamo in strada, quindi insomma l'evento è un evento di beneficenza. E ci sarà appunto questa riffa che prevede come primo premio un premio interessante, perché è un book fotografico con il proprio animale offerto dalla fotografa professionista Gabriella Deodato. Secondo premio ci sarà un cesto alimentare per gatti, ovviamente, visto che il tema è quello. Il terzo premio consiste in una copia del libro, appunto, di Enrico Di Giuseppe Toccafondi. E il quarto premio, vabbè, un trattamento presso un salone di bellezza. Quindi ho aggiunto una cosa che non ti ho comunicato. Porterò in un laboratorio che mi fa delle cose, il polmone essiccato, si chiama Dog Deli. Gli ho chiesto di portarmi delle cose che fanno loro molto particolari. Loro sono un laboratorio e fanno premi per gatti molto ricercati, fatti con organi interni e pesce vari. Quindi era, insomma, li ho invitati. Bene, l'abbiamo saputo in diretta, effetto caramba, ci piace questa cosa. E dunque, no, volevo dire che l'evento si terrà, ripeto, 19 maggio 2022 dalle 17.30 in poi presso il Casale Il Fienile, che si trova in via di Casal Boccone 102B ed è zona talenti. Quindi mi sembra di aver detto tutto sull'argomento, è un evento molto interessante sotto vari aspetti, quindi speriamo che chi ci ascolta possa in qualche modo un'informazione così di dura. Il gruppo di nutrizionisti che viene si chiama Nutravet. Maria Maier, sì. Marta Batti, Bernabucci, Carmine Salese, sono un gruppo affiatatissimo di veterinari che fanno spola comunque sia con Roma e le punti dove sono. Per esempio Maria viene da San Benedetto del Tronto, fa spola con Roma. Loro sono un gruppo che collabora tantissimo, soprattutto quando lavorano su qualche paziente si consultano moltissimo, e si chiama Nutravet, questo come quello ci tenevo a dirlo, loro vengono e ci fanno questo grande ma è anche onore. Importante perché magari chi ci ascolta da fuori Roma che non potrà partecipare ha un solo nome se ha un problema da ricordarsi, capito? Sì. Invece tutti i veterinari, perché quello fa capo a tutti loro. Sì. È comunque una rete così interregionale, insomma, da quello che ok eventualmente magari se chi ci ascolta e non è a Roma magari ci può contattare o può contattare De Michele, noi metteremo poi tutti i riferimenti per avere informazioni su come poter approcciare magari questa alimentazione per il proprio cane o per il proprio gatto e soprattutto come potersi interfacciare con un nutrizionista, che abbiamo capito che comunque è il canale fondamentale che poi si collega al tuo lavoro, insomma. Forse prima non abbiamo detto che PNEI è psiconeuroendocrinoimmunologia. Ecco cos'è. Ok. E dunque chi è interessato e vuole partecipare può seguirci sui social, sì. Sia i gatti della Tiburtina che Baobar, siamo presenti su Facebook e su Instagram, e quindi lì potrete trovare anche l'evento organizzato da Baobar e i gatti della Tiburtina, quindi insomma i canali per poter prendere informazioni ce ne sono. Sì, poi li trasferiremo anche noi, insomma, li sottolineeremo anche noi. E ricordiamo poi che i Gatti della Tiburtina è un'associazione di cui tu sei la vicepresidente, giusto? Sì, è un'associazione che è nata nel 2017 dall'unione, dall'amicizia mia, insomma, con la presidentessa che si chiama Nadia Diodato, ed è un'associazione in realtà nata su un'attività già preesistente, che è quella, come dicevo, di accudimento dei gatti di strada e non soltanto a livello di alimentazione, perché noi li raccogliamo anche lì dove sono feriti, abbiamo delle cliniche dove li portiamo, dove abbiamo delle convenzioni per curarli, poi ci occupiamo ovviamente delle adozioni, dei preaffidi, tutte cose di cui parleremo in futuro. Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora io vi ringrazio, vi faccio un grande in bocca al lupo per l'evento che si terrà il lupo sempre. In bocca al lupo alla lince, se no si offende il gatto, perché c'è ragione, il capottibile del cane, hai ragione anche te. Cercherò di essere presente anch'io, insomma, all'evento, perché è importante sostenerlo e secondo me, insomma, vale assolutamente la pena e spero che riusciremo a diffonderlo il più possibile, spero che parteciperanno in tantissimi. Io vi ringrazio ancora molto e grazie. Spero di potervi ospitare di nuovo qui a Pograsi. Grazie mille per questa bellissima serata. Grazie a te, un saluto a tutti, grazie. Ciao, buona serata. Buona serata. Bene, amici. amici, per questo episodio è tutto. Ringrazio Michele Sacco per aver accolto il mio invito e Barbara Cambareri per il sostegno e la fiducia. Prima di lasciarvi, vi ricordo che Pocrasy fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la Radio Geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. E se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/pocrasy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a pocrasypodcast@gmail.com. Da me, Michela De Paola, è tutto. Al prossimo episodio e che la rivoluzione abbia inizio!